biay sesek nong ati mergo nono riko wong hang sun welasi serengenge sun jaluk akyakin jumbulo miakni biso madangi piatin hang peteng yoro. Con